venire di Adara. No, che sono questi di Sosso. Ah, quelli di Sosso sono, rispondo. E allora siamo a posto. Come sei di stazionario oggi? 1, 2, 1 e 3 adesso. A seconda del vento. Quindi è questione di costo, di massa. Però l'apparecchio non c'ha niente, pensavo c'era l'effetto l'apparecchio, invece l'apparecchio va bene. Se mi sta segnando Santiago 8 di importanza in AM, quindi è a posto. Io pensavo peggio, magari che fosse difettoso, invece era cazzo l'antenna, mi ha rotto i coglioni. Così anche col Kenwood, cazzo. Il Kenwood in FM da 50 watt ce ne scendeva a 30. Mi senti? Sì. Mi sento, ma non capisci chi è Alicio. Vieni qua! Mi sta facendo bannare oggi, mamma mia, non la posso più, cazzo. Dio, addormenta l'ombocca, boh. Guarda, non ce la faccio più, lo so, con bisticente in tutta la casa, credimi. Non è con me. Guardati i carri animati, guardateli, mamma mia, qua. Cioè, non posso soltanto stare di così. Dai il telefonino, un telefonino di quelli vecchi, vedrai, si gioca e tu sei più tranquillo. Tutti fanno così, mi danno il telefonino al figlio e cazzo, e poi imparano come usarlo e gli metti una scheda e vedrai cazzo come impara. Ma vai, fa 2 anni, ho usato il telefonino. E te lo sto dicendo, mica già un sacco di gente glielo sta dando a me, il telefonino, per tenere lì a bada. Lo so che c'ha 2 anni, te lo sto dicendo. Ormai i bambini a 2 anni ne sanno più di noi. Ci arrivano da soli, capite come usare il telefonino. Li metti i videogiochi, giocano con videogiochi e stanno tranquilli. Tutto lì. No, ma che capo, ci stufa le culo a terra, capito come è il problema? Porca miseria, oh. Madonna, devo stare sempre col cuore in gola, cioè, io non incombino tutti i culotti, li combina. Oh, mamma mia, guarda. Lo so, purtroppo è così. Beh, con quell'apparecchio che mi hai telefonato, com'è andata? Bene? Guarda Antonè, benissimo, mi ho dato 2 colpi davanti, cioè prima sono andato a destra, poi a sinistra, se ne per fare forza in 2 parti diverse, capito? Mi sono tirato la roba perché ho pietrato l'impianto oggi, però che è un po' di casino. Un po' a destra, un po' a sinistra con la pinza e lo, come si dice, e sono riuscito ad aprirlo, però non so come si dice, adesso io non so se va, con quanti canali va, il 40 sono sicuro che ce l'ha, però non so se sia come l'Intec o meglio dell'Intec, o uguale. Sono uguali, sono uguali. Una volta che hai spaccato la modestina che c'è all'interno, va dall'1 al 35, poi c'è il 40, ricordati il 36, 37 risulta canale 2, canale 2 normale, 38, 39, canale 1 normale e il 40 ce l'hai il 40, hai capito? Quindi, dopodiché te l'ho spiegato, non ci vuole... Io te lo faccio vedere come si fa a fare i canali sotto e i canali sopra. Cioè il canale normale e il canale sotto, ne hai 34 sotto e 34 normali. Capito? Se poi riesci a trovare dei quarti adatti per quel circuitino che c'è lì, riesce a avere 39, 40, 41, 42, 43, fino a 50. L'avevo fatto io un FM500S, ma non mi ricordo che l'avevo volato, la verità. L'avevo volato a uno, ma non mi ricordo a chi. Capito? Perché l'ha voluto, dice, voglio il tuo FM500S perché cazzo esce forte, esce bene, eccetera, però non mi ricordo chi era, cazzo, vabbè, non mi ricordo, forse Andrea Maricubi, adesso non mi ricordo, oppure l'altro di Ussi, come si chiamava, fa culo, mi viene la memoria ormai alla vecchiaia, cazzo, mi lascia, quindi... Comunque sia, quello era bello, quell'FM500S, era modificato, avevamo messo tre quarti, partiva là sotto, i midi e anche gli alti, arrivavo fino a 80, arrivavo quasi. Capito? Capo, è un bel apparecchio comunque, la verità ti dico. Se riuscire a mettere la batteria questo in... Il suo Intec, come si chiama? Ma non mi viene adesso. C'ho un M600, c'ho. Una la batteria è andata a farsi friggere, mi sa. E poi voglio mettere la batteria per vedere. Guarda, non mi ricordo se... Era data per la 48, non mi rammento, ma... No, ma dato, mi ha regalato l'MP4, coso, il mio principale. Ti ricordi che non c'era con quei capo di 43 MHz? Ah, te lo ricordi? E c'ho anche un altro MP4 da fare connessione per il 48, capito? Già ho capito. I 43 MHz li avevo modificati. Adesso a ricordarmi, ragazzo, che modifica avevo fatto. Da 34, mi sembrava 23 o 34 canali, no, 23 canali ci usciva fino a 500 addirittura, e io ho detto 500 canali, quindi partiva da 43, saliva a 44, 45 e poi scendeva a 42 e 41 MHz. C'aveva un coso, l'unico che ho fatto, l'ho fatto a quel tipo che c'ha la come si chiama? L'officina meccanica di Viale Paolo Torres, che c'era lui, 43 MHz, l'avevo fatto io a lui, gratis, perché mi sono giocato un po', però cazzo, ma ci usciva, c'era poco dei canali, e avevo fatto dei punti, mi ricordo, c'aveva un sacco di canali, c'aveva, adesso a ricordarmene, sono passati tanti anni, sono passati, purtroppo, a ricordarmi la modifica, oramai no, a meno che non libera di nuovo l'apparecchio, allora, perché ci sono dei cosi, dei puntali che sono tagliati, io li ho saldati, lo sai, cazzo, dove ci usciva quell'apparecchio, cazzo, fino a 50 MHz, figurati. Praticamente entrava anche in 27, entrava, così è, non te lo ricordi? No, il 27 non scendeva, andava a 50 MHz, e 50 MHz mi pare, adesso non mi ricordo bene se c'era, se la frequenza dei cosi, dei pompieri o cosa cazzo, no, della polizia o cosa cavolo è. E poi scendeva in 42, 43, una cosa del genere. Cazzo, saliva, scendeva, dove il livello, cazzo, lei? Come c'è il display a 3? Non c'è il display a 2 come c'è, abbiamo i 27, c'è il display con tre numeri, hai capito? E quindi cazzo, ho dovuto cercare piano piano con un coso, con lo, col 680 la sono citato la frequenza, mi se no non avevo mai saputo dove cavolo ci usciva. Ma cosa ne cavolo se ne faceva lui? Cioè, a parlare in quelle bande lì, a ascoltare era, un ascoltone, così è. Se no non ha senso dirci quelle bande. Beh, gliel'ho fatto più che altro per ascoltare, capito? Lui usava per metterci un apparecchio lì in officina e l'altro se l'ha installato nel camioncino, capito? Allora ho preso, l'ho modificato, gliel'ho fatto 15 watt, una cosa del genere, e poi, dato che c'era addirittura, riesci a vedere cosa esce fuori con questi punti, capito? C'erano dei punti tagliati, li ho saltati, cazzo, ci usciva la tua cosa, ci usciva casino, ci usciva. Infatti è rimasto meravigliato. Capo, mi sa che si sta aprendo la propaganda, cosa ne dici tu? Capo, sento un bel di... un bel forte, sento. Ma questo 97 c'ha le collezioni del 48, ti ricordi tu? Non ho capito, sei 48? Faccio le connessioni del 48, 87. No, le connessioni del 87 sono del superstate 1009. Io ho le connessioni uguali al tuo, quello che c'è tu adesso, del 87, eccetera, eccetera, che in pratica sono delle come si chiama? L'ala 48, eccetera, eccetera, capito? Zodiac, capito? E sto usando l'LMS 200 adesso, sto usando. Lo Zodiac è impossibile perché ce l'ho, ho dovuto fare un microfono a parte, non andava bene, capito? Io mi ricordo che c'aveva gli agganci, l'87 del, come si chiama, del 2009, a quanto mi ricordo io, perché sì, usavo lo stesso microfono, a quanto mi ricordo. Invece nell'MS200 uso il microfono dello Zodiac, del Midland e roba del genere, infatti c'è un microfono normale, se noti. Se attacco il microfono quello amplificato, le cose non funziona, che ho io, dei due CM40, se invece cosa ti posso dire? Se tu curo un microfono della Midland funziona subito, amplificato, ma non mi interessa, va bene così. Scusami Antone, ma rimani un attimino. Così è. No, perché se provo questo, non mi ricordo se... Sì, il microfono, un po', c'è un casino, insomma, mamma mia, va. Sì, lo so, non dirà a me. Ne ho comprato più un sacco di quei microfoni, l'ultimo MB4 che ho preso l'ho regalato a mia sorella, con la scatola è tutto, ce l'ho qui la scatola, per come l'ho pagato, quindi non ho accusato io. Ho detto guarda, ti regalo il microfono che ho comprato, ho detto già va. Di tutti, hai comprato il 2009, gli ho fatto gli agganci e si è usato quello. Poi io ho due Sadelta, capito? Cosa me ne faccio gli altri microfoni? Vabbè, se ne voglio c'è di uno 50 euro ce n'è in vendita con l'alimentatore 100 euro, della Intec, il 10-12, l'HP 10-12, capito? Se voglio mi compravo quello, perché aveva comprato Antonio, ma no, non ne spendo altri soldi, basta, basta così. So che arrivi due. Allora, 10, 60, cazzo. E come mai? Ce l'ho così, aspetta un attimo. Ah, adesso sono le 3. Vediamo un po', 65, a 70 watt con lo speed di ACTE, con l'elemento 200, potenza 5 watt, potenza media, potenza bassa, 2 watt e mezzo, cioè 2 watt e mezzo, mezzo watt, 25 watt in uscita. Come sto uscendo? Bene, sì. Una bomba, sì. Ok, stazionale 1 e 3, picchia 40, adesso, ecco qua, medio e massimo, 80. K. Oggi vedi che c'è la fondoscala in oggi, Fondoscala sono. E 9.30 segna qua. Già va bene, sono contento. Mi controllo quel cazzo di palo della BIA 27L, perché cazzo a volte quando oscilla cazzo ci tende a non premere le palle più che altro, capito? Perché c'è poca massa. Adesso devo cambiare il palo, ho già chiesto un amico e fra una settimana vado a vedere il tiro. Palo stringato e me lo installo nuovo, così almeno sono tranquillo. Ma dove devo andare? A Bricco devi andare. Vado a Bricco, me ne vado. Vado in macchina, me lo carico in macchina e poi me lo salgo sotto. Ora, sta andando adesso. Ho detto, non mi potevi avvisare che cioè, ti porta buio giù da Bricco. Non l'ha ancora comprato lì, hai capito? Cosa ti ha bisogno di fare? Non l'ha ancora preso, adesso appena mi stabilisco come si chiama, vado e me lo ti avviso e così andiamo da Bricco, come lo prendo e lo carichiamo in coso, non c'è problema per quello, sì. Non l'ho ancora preso, figurati. Ehi, dimmi, quando lo puoi prendere io ti porto io, dopo c'è, dopo il problema. No, non è problema. Non devi aspettare nessuno, già, te arrivo io. Dico il giorno che sono libero, andiamo un attimino, si fredda. Vabbè, non c'è problema. Lo prendo, ce l'ho fatto su e poi appena c'è un momento, appena cambia un po' il tempo, ne stacco quel palo d'acqua che mi ha girato il coglione, mi ha girato, lo butto giù e ci piazzo l'altro, quello nuovo. E me lo so più tranquillo, cazzo. E se no, no non posso usare né questo, né ma quel cable, perché il cable in FM da 50 watt se ne scendeva a 30, figurati, mancava di potenza, quindi non avevo voglia di bruciarmi i finali. Ma secondo me è un'altra la questione, adesso Carlo Strano pure a me facciamo stazionare un pochino alto con la più butta molto, Carlo Strano pure a me non sono più così. Vabbè, già sì, non ti preoccupare per quello. Quando c'hai, strano è che c'è stazionario, da quando ha piovuto molto, già asciuga, una volta che oggi dovrebbe aver asciugato, a meno che non ti sia penetrato qualcosa nel PL. No, negativo, oggi è a posto. Sì, oggi a posto. Oggi va bene. Beh, ma è meglio sconto la luce, perché se piove dovessi attaccare il watt, la questione del cambio, hai capito? Tutto lì. Al suo liscio. E per quello che l'ho fatto io. Con 100-300 watt posso tranquillamente pompare, ma con più di 300 watt no. Sciogo l'antenna, sciogo, capito? Quindi 300 già vanno bene, e c'è anche per i pollici. Ciao, faccio questo al mese 600, se non ricordo la batteria, ma non beh, ti pare, raga. Cioè, ciò che l'alimentazione, ciò. La cosa, come si dice? Ma alimentazione. Adesso provo a togliere le viti e li metto la batteria nuova. E lo provo perché pure quello, cazzo, se non me la apparisco, non me lo ricordo adesso. Lo provo anche quello, non conosci quello della Intec, sì. E questo chi è? Avanti, vuole entrare. Avanti, avanti, già ti ascolto. Avanti per il controllo. Chi è? Chi è? Ehi, Aulia. Prova un po'. Santiago, tu sei qua. No, no, l'aria a posto, tranquilla, tanto. Ragazzi, sono Danilo, che dice bene? D'accordo, poi c'è anche Danilo. Avanti Danilo, già ti sento, da dove stai parlando? Ciao Gianni, guarda, da Porto Torres, da sbaglio ci siamo sentiti qualche altra volta. Sì, Gianni da Porto Torres, Alessio comunque da Sassari qua. No, ti ho perso un attimino, non ho copiato bene. Ciao amico Porto Torres, io già mi sento tutti e due già, Antonio da Sassari. Qua Alessio da Sassari comunque, qua è Antonio. Alessio, senti, copio bene, ti ricevo bene, una bella modulazione, tu come mi ricevi? Segnale 9, modulazione 5, adesso sei 7. Ah, perfetto, dai, perfetto, stavo provando proprio oggi l'antenna nuova messa sul tetto, quindi dai, diciamo non è male la cosa. Sta arrivando bene, poi c'è uno americano, Hello, vieni Neros. Non mi risponde, vuol dire non le ha soldi questa amica. Sì, leva di una villella va. Noi vendiamo carciofi, banane, 4 kg, 1000 lire per gli americani, USA, per gli USA, banane, carciofi, 4 kg, 1000 lire, al calibro. Devi dare i prezzi in euro, gli americani, cioè i dollari, gli americani, le lire, neanche le conoscono. Per le banane 100 dollari, banane 100, anzi le uova le vendiamo 10 dollari l'oncia, come loro. Mi sa che allora diveniamo ricchi, noi proponiamolo, se qualcuno ci sta facciamo qualche soldino. Hai visto i dazi cosa vogliono dire per quel guasto? È rimasto senza uova, le uova gli diamo le nostre, gli diamo, così almeno mettiamo incinta tutte le ragazze americane. Se c'è una viaria, ce la fai a prendere roba da loro, ecco perché non c'hanno uova, c'hanno la viaria, c'hanno di lì in America, non ci vuole mangiare un pollo, no? Avanti a tu, riprenditela. Guarda, come mi senti con questo microfono? È molto amplificato, va bene. Così va meglio? L'eco non è uscito. Ah, ecco, non ne hai. È l'effetto camera, capito? Capito l'amplificazione che c'hai. Ciao, questo è il microfono veramente. Capito? Ora, ecco qua. Già va bene, sì. Aulia. Ciao. Adesso tengo questo qua, tengo. una piccola promotore, se lo sento benissimo, lo sento. Bene, ti arrivo. A me sì, agli altri non lo so. Ma io lo sento. Hola, hola. Sì, io ti sto ricevendo male, male. Boh, sembra proprio un effetto eco, sicuramente sarà colpa mia, non so, però ti ricevo male. C'è una bella eco, no? Ehi, tutto amplificato, capito? Poi parli troppo veloce e quindi sembra che c'è l'eco attaccato. Abbassa appena l'amplificazione e poi sei più tranquillo. Guarda, vedere adesso al minimo l'amplificazione, com'è? Tutto bene, tutto sotto, sì. Sto pompando. Tutto sotto, sì, come fanno a dirti che stai facendo bene? Non lo si è capiti. Ciao, pronto. Ciao, buonasera, io sto cercando di abbassare questa cosa, perché è una bomba senza usare, aspetta un attimino. Hola, ecco qua, un pochettino abbassato. Adesso va meglio, ti va bene adesso? A me va bene anche quando va bene a te. L'importante è che uno esce bene, se no come faccio a ascoltare? Adesso va bene. Mezzo watt della Lafayette nel 1200. Il segnale non è cambiato, sei sempre fortissimo. Era la radio che ti mangiava, Antonio. C'ho il microfono normale, già lo credo. Se mi piazzo un microfono amplificato cambia la storia. È una cosa logica quella. È una giugata di metterci il microfono amplificato. Lo lascio così come originale, l'ho preso così com'è. Adesso così sono a bassa potenza, così sono a media, dovresti capirmi lo stesso. Sono 60 watt quasi. Sì, va bene anche così, ma quando abbassi molto la potenza va meglio, capito? Comunque, lasciala così, già va bene. A quanto? Va bene, qua. E intanto ti vuole circolazione, no? Sei sempre di corsa, normale, uno che lavora deve essere sempre correndo. Niente, ero qua in radio, 10 metri ho girato, ho sentito voi, sono andato a salutarvi, niente di che. Domani siamo in due, dopodomani io sono di sera, insomma, c'è il mio collega, e stiamo facendo un giro, una mattina sì, cioè ci stiamo dividendo così, capito? Perché il lavoro non c'è per tutti e due. Allora così a me non mi pare vero, perché se escono bombole guadagno di più. perché è diviso il coso, non mi pare vero a me, non lo so tutto io. Adesso domani siamo in due e dopodomani siamo in una persona solo. Capito? Facciamo uno la sera e uno alla mattina. Andiamo a lavorare. Non c'è problema. Piuttosto mi state ascoltando bene, ma sì, io la mia antenna non è più quella di prima, è fatta diversamente. Una bomba, sì. La radio è sempre quella, sì. Capa, sempre quella? Qua sei fortissimo, sei una bomba. Bene, anche tu sei proprio più 24, pieno. Tonello, vabbè, ce l'ho più vicino, un po' più alto. Andiamo dopo. Questa antenna si sta mettendo, ti ho sentito l'acqua ti va nell'antenna la varia. Ho capito perché, cazzo. Uscila da... Adesso c'è un 4. Ora, a volte sale un 5, a volte scende a un 1. C'ho il palo da cambiare, capito? Quindi devo decidere, in questi giorni vado con Marco, da Brico, se vediamo un pochettino. Adesso mi chiamo 1.6, come c'è il vento oscilla, devo vedere, adesso 1.3, sta oscillando, infatti già noterai la differenza di segnale, 1.7, a seconda del corso. L'altra volta me ne sono accorto, infatti ho attaccato il chiodo per quello, ho attaccato questo. Ah, ce la faccio a bruciarmi il chiodo, mi dava 50 watt in FM, tutto un tratto me ne dava 30. ho preso uno staccato immediatamente tutto, uno staccato e qua non continuo. Allora, aspetta che lo passo con l'altro. Se si brucia, si brucia, non fa niente, cosa cazzo me ne frega. Basta se bruci il Kingwood. Quindi vabbè, non si deve bruciare niente, diciamo che funzioni sempre tutto bene. Va bene, sono tanto a salutarvi, buon proseguo di serata, buon proseguo di questo, bacio e bacio a tutti. Riprendi Antonio. Capa, ciao qua, ce la risentiamo alle prossimine. Ok. Sta bene qua. Ora, ora. Ti sto uscendo, sì. Stavo scaldando i motori. Guarda, gigante, number one. Oh, quando sto arrivando? Più di 9:20 sì, adesso. Quasi 30, giovedì al 39 del mese di 20. Vai, Casale. Buonanotte. Beh, benito. Ciao, guarda. Beh, chi è che c'è? Buonasera a tutti. C'è Antonio Antonello, poi io non ho sentito altro nessuno. Dai, che io mi sposto che sto facendo un po' di attività in CF. Già ci sentiamo ragazzi, statevi bene, vai lui. Dove sei? A 55? Ora KF, 40 metri. Boh, non arrivi a 40 metri, ci arrivi a 60 metri. Era lunghemmo. Gamma, di poco. La canna diceva qua, c'è un russo sotto, c'è Santiago 8-9. Buonasera Luca, ben sentito. A chi? A chi Antonio? Oh, c'è un russo sotto di voi, Santiago 9, mi sa quale va. Ha fatto un passaggio poco fa, avanti, fa l'altro. C'è un buon preparazione, soprattutto in 10 metri, a 28. Vabbè, divertite, però che mi sposto un po', mi faccio un po' di attività in CF. Ciao ragazzi, vi abbraccio a tutti. Ciao, ce la risentiamo alle prossimine, vai. Allora, prendiamo qui anche Rossini, Lucanto. Certo, allora, sempre prendi casino, so chi c'è. Adesso vado a fare anch'io attività, gli essere da Falcone, cazzo. Così mi avvestano, mi danno 5 anni a arrivare al 67 e mi va bene, mi danno la pensione sociale. Grappa, ma poi un bel po' che fa un bambino a te. Prova. Un altro. Segnale 9, 9, 5. Sì, già è molto secco, già. E 9, cosa vuoi di più? Lampa di dotto. Ciao a tutti. No, Antonello, ciao, lo Smitter da tarare. Ciao Antonio, Antonello, non so che c'è, sono tornato in questo istante a casa. Tu, Antonio, non hai radio però, Antonio è forte, ma tu non hai radio quasi. Adesso la radio ce l'ho, 1, 2, 3, 4. Almeno si capisce il parlato, dai. Adesso va meglio? 1, 2, 3, ho staccato lineare. Sì, lineare ti mangia la radio, ti mangia abbastanza radio, Antonè. Vai, Antù. Cappa. Vabbè, mi maestro non sono nuovi, certo, perché qua la cosa sta spingendo forte, un bel forte pure. Io non ho toccato niente, manco lo trimmer dello Smitter qua in questo baracchino, capito? Quindi i segnali che mi stanno questo Smitter ti sto dando io. Di solito mi arrivavi 9 più a quei periodi, collato parecchio, quindi non faccio il caso, hai capito? Non ho toccato lo Smitter io, non lo tocco l'apparecchio. È così, la verità. Il segnale in trasmissione è 9, grazie a Dio, quindi è l'antenna che ha problemi. Capito? A volte sale, scende, è stazionario, sale 1,1, sale 1,5, quindi non mi fido di un cazzo adesso. Quando stabilirò la questione, adesso c'è 1,3, tanto per dire, 1,3. E quindi sono a posto, segnale giusto. Cappa, è che non sono in zona, se no te la prendi tanto bene con l'interno, non ti preoccupare. Avanti Marco. No, non è lo Smitter come quello che pensi tu, questo è un apparecchio vecchio, devi fare il giro del casino per trovare dove c'è il crimine dello Smith, non lo voglio toccare apparecchio dentro. Hai capito? Come mi è stato dato, spedito, eccetera, eccetera, cioè come l'hanno spedito a quello là, che non ha toccato niente, ma che ha aperto, altrettanto sto facendo io, quindi a un certo punto mi sta bene come a un certo punto. Piano, tranquillo, mi sta facendo bene. L'unica cosa, devo mettere il microfono per ficcato di qua, mi metterò adesso, vediamo se sale il telecomasta, lo accetta, gli metterò quello e almeno esce un pochettino, però ci vuole un altro tipo di microfono, quello che c'ha l'attacco Alan eccetera eccetera, capito? No, l'attacco è anal. Anal, mi ha detto di essere facoltà. Chi era l'altro? Luca. C'è Luca, poi c'è anche l'amico di Porto Torres. Avanti. Avanti Porto Torres, ascolti Sazzari. Dai, non ho scusami, Itteri. Avanti Itteri. Santiago Lopo, Radio 5. Qua si sente, aspetta un attimo, cambio la cappettina io, beh, attacco il cable, là. Quasi almeno vedo i segnali giusti, se no oia. 8 Sassa di centro. Da, con 3 watt non mi sente. Guarda, l'hai combattuto l'amico da Sassari. Tanto che se Santiago 8, ha detto, itteri. Ma no, intendi, no? Mamma mia, devo aprire le finestre, che schifo, il gatto ha fatto la cacca, c'è un odore terrificante da vomitare, devo aprire tutte le finestre. Riprendi, Luca. Ah, sono in fare. Cazzo ne avviago, ma è una cosa terrificante. Adesso cambia la cosa. Vabbè, già non credo, via. Ti riscommetto che mi siete vicino a casa tua. Prossima bomba, sì. Cazzo, questo è il 140, già non credo. Cosa chiude un mano? A me è che mi chiude, deve tutto, eh? Cappa, l'accendiamo è giusto adesso, però. Beh, adesso sì, tu sei 9:20. Aspetta Luca! Io sono qua, ma mi sentite? Ah, vicino alla borsa, dai. Per il casino, ma cappa, ora! Vai, stai andando, amico! Sono passo, dimmi se lo passo. Passi. Non è manco parlato, figurati per quello. E vabbè, com'è il segnale mio di Antonio? Perché poco fa mica lo so modulato. Com'è adesso? Il mio col cable e quello suo a casa sua. E guarda bene, ho passato un po'. Aspetta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, quanto è il segnale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ditemi. Magari Antonello un po' più vicino a te, capito? Via. Sì, Antonello è in alto, quel cocomane. Ittiri, mi ascolti a me? Guarda, controlla a me, guarda un po', 1, 2, 3, 30, 40, 50. Segnale 5? Ah, va bene, dai. Cioè, se entra, per Ittiri sono un po' negativo, Cappa, ma chi sei, Leone? Sta a Sassari, al monte. Luca, guarda adesso, è cambiato qualcosa. Ah, ok. Ah, niente da fare. Guarda, io ti sto ricevendo bene, ne arrivi 7. E Luca lo stesso ancora più forte. Cappa, chi è l'amico? Sono Danilo, ero rimasto in ascolto. Cappa, il più forte sarò io, no? Sì, guarda, sì, mi arrivi più forte. Ecco, un attimo, devo fare un lavoro, veloce. Ma siete tutti attaccati? Cappa, facciamo scaldare appena appena i motori siamo, perché? No, per farmi un'idea, siete tutti in fondo scala qua, vabbè, in città non fa testo. io ho tolto tutto, per il momento non c'è nulla qua. No, l'antenna ce l'hai. Vabbè, giusto quella. Comunque hai tolto tutto. Conservato il telefono. La scarpetta è tolta. E io ho detto, l'hai conservata, mica poi ci passa il coso, mica la veniera è stata tolta via. Sì, ancora non ho trovato il riduttore di potenza. Non pervenuto, sparito. E allora, vabbè. Vabbè, vi lascio 10 minuti, 4 ore, devo fare 4 furi e poi sto salendo qua di nuovo a casa. Ciao Antonello, ciao Antonio, ciao Luca, ciao a tutti. Tanto non mi sentono gli altri. Io chiudo, mi sto facendo altro. Vai Luca. Luca, dimmi una curiosità, ma oggi come mi ricevi? Meglio degli altri giorni? Luca, guarda che ho detto a te. No, non ti ho copiato. Perché non ha parlato. Ascolta, come mi stai ricevendo? Stai ricevendo forte e chiaro? Guarda, sei otto, sì, ma tu non c'è stato in pizza tanto. Ok, sì. Dai, ho fatto un upgrade dalla barra mobile, ho allestito così, dai, 4x4 sono abbastanza fissa. È tutta un'altra cosa. Secondo sei in barra mobile, non sei in barra fissa. No, da ieri sono in barra fissa, da ieri finalmente in barra fissa anch'io. Ma quanto usano di antenna? Ho già detto, quanto usano come antenna? Guarda, per ora sto usando una boomerang, perché non posso mettere il meglio, però poi cerchiamo di fare qualche upgrade. Non so che arrivi bene, deve essere a Porto Torres. Qua sei Porto Torres. Sì, esatto, Porto Torres, più o meno Serra di Putti come zona. Cavolo, stai arrivando a Porto da Forte, se mi trovate una grossa qua arrivi dopo 20, arrivi un bel forte. Sì, dai. Poi ti ripeto, piano piano iniziamo a fare tutti gli upgrade del caso, però già per iniziare, dai, non mi posso lamentare. Ciao ragazza, arrivi bene, stiamo chiamando a fare, magari chi c'è. No! E sapere chi è? Ehi, c'è qualcuno? Ragazzi, io ho capo, è stato un piacere. Sono giusto a farmi un troppo per bene la roba a terra. Se c'è qualcuno nel pomeriggio si sente con più calma. Hola. Chi è che ha detto mi sentite? Avanti. Chi è che voleva entrare? Ho sentito anch'io qualcuno, però basso, non sono riuscito a capire. Ma qua arrivava forte. No, guarda, io non proprio sono riuscito a tirarlo fuori, a capire qualche cosa, ma di striscio, ma poco e niente. Scappa. Chi è che mi sta sblatterando il canale? Fate i bravi qua, Avanti! E cazzo, sei fortissimo, c'è, dove sei? Haiti di solito! Innamora, ma ti sicuro! Haiti! E cavolo, sei un bel forte, c'è! Sei non più 20 qua! Tu, fai passaggio! Oh, te ho tre! Sì, sei arrivato adesso! Dai che sei troppo forte, sì. Se trovavo meno che una vita a cattolineare con me. Sei un bel forte, sì. Prova che ti cambia sì adesso sei 8. Scappa. E su quanto arrivi forti, ma a cattolineare grosso. Scappa. Ma che antenna c'hai? Antenna... La faccia di pizza. Ogni tanto mi si blocca il PTT. Guarda che ci sono 11, mi stanno splatterando tutti i canali. Hola. Attenzione, canale 10, K. K, chi è l'amico di... vincere, no, devi uscire proprio lì. Capo, porta chiaro, ma quello è da me, molto la cosa, Daniele, lo conoscete? Ehi, ho detto in quelle zone modula Daniele, lo conoscete? Daniele! Ah! Capo, sì, me l'ho detto che c'è la ruota d'anghiera sul 15, ma non ho avuto ancora il modo di sentirle. Capo, non mi hai ancora voluto l'occasione, almeno per la prima volta sapere come davvero arrivo, capito? La mia cosa, la curiosità è quella. Gappa, gappa. Andiamo bene, andiamo a cattaglia. Prova radio. Vabbè, altro. Andiamo avanti, prova effettuata. Vabbè, altro. Vabbè. Vabbè, dimmi che c'è cosa che mi ho mandato. Roba seria, che. Non ha la stazionale, chissà. Là. Avanti! Adesso ha cambiato, no? E già un grido via che ha ciambato. Mamma mia, c'è il fumo sta uscendo. È bello forte a Sassari, ma è frazione fissa. Cos'ha una moto, ma cosa c'è? Una moto 5, c'ho una moto radiale. Me l'hanno buttato a terra gli uccelli. Ehi, se funziona che non ha stazionaria già fa. Non lo so se c'è. Devi controllare, non ce l'ha l'strumento. Ce l'ho, ma tutta roba vecchia, che l'antenna si sarà piantata sopra il tempo. Sì, ma già anda. No, ma sembra che diceva chiaro, sta uscendo, tu stai arrivando. Cappa, provatene che te la saresti già accorto. Sì, 8, andando verso il 9, dai. Come segnale. Va bene. Va bene, Lillo. Ciao. Ciao. Non lo senti l'amico da Italy? Bionda. Oi, biondino. Beh, ci siamo fatti. Ehi, allora, cazzo un mammo, cazzo c'ha questi colori da paura, è bella, Cazzo sembra veramente, realmente dentro la televisione. Molto spesso. Adesso non vanta, ha cambiato tutti i led, sono quei led curvati. Led curvati non li ho mai visti. Me li ha fatti vedere, sono led curvati. In giro alla televisione andava. Sì, ma il discorso che il televisore si chiuda non è un problema di led, Emanuele. Scusa. Io non ne so, cacciamo dei led, me li ha fatti vedere pure, me li ha dato a me se la giurampati. E a monte c'era anche un altro problema, se non i led, a monte se la TV ci spegne. Però almeno io l'ho accesa e non si è spenta per niente, l'ho tutta per un po' accesa, non si è spenta. Perché c'erano delle saldature false, cioè non false, saldature... non erano fatte bene, capito? No, l'ho portata a casa, l'ho accesa e mi si è chiudata, e se no non me l'avevi arrivata, no? Ma il problema era anche lì, capito? E buh, cosa mi sa? Perché non era il TV, ha cambiato il red. Ma non è, la TV non si spegne, cioè i red si spengono, ok, ci sa, perché però il radio si deve sentire, la TV non si deve spegnere, si spegne lo schermo. Lo so, quello lo so, se non il red non si vedeva molto, lo so, cazzo non me l'ha già ambato quello grande, si sentiva solo l'audio. E chi l'ha portata? Da dove mi si chiama la radio, quella radio antica. Ah, capito. Chi è che l'ha rigata? Lo sento. Un di la rigata ha tutta la televisione. Su, in Viale d'Arte. Ah, ho capito. Sempre esiste quello lì. Eh? Esiste sempre quello lì. Esiste. E ho detto, c'è sempre che fa queste cose. Sono giovane. Cappa. E prima c'era un signore anziano, c'era. Ora. Ora. E andiamo a chiamare a Susi. Signore anziano, boh. Non lo so. Cappa. Cazzo, devo pure moto la moto anche di Uia, perché te devo attaccare i cavetti. Cappa, ho preso un biglietto di mare in casa, ui ui ui, per carità, manco un indiano in casa, vedo mangiare, per dare un po' di espresso, già. Sarà volato. Oggi travaglia il soppo. Non so cosa ne so io. Oggi è domenica, lo so che è domenica, magari se uscito, cosa ne so, ha fatto anche qualche cosa. Ah, mi è uccidato un mare. Sono andato per trattare ora. Sono un bravo, giusto. E faccio una così io. È un di impaglietta. E per fare un giro rotonda, cosa ne so buio? Tanto. Se ti mettiamo la cara in casa, io me lo decido. Ma dopo posso da mangiare, hai visto? Perché non mangia, cioè, mangia solo frutta. Ecco, hai preparato la minestra, la pasta asciutta, la mangiamo. Ma dimmi tu. Cioè, allora mi ha già attaccato un po' di impianto, ho già attaccato. E te mi ha zocco, chi si ha zoccato vero, no? E qual è il pianto attaccato? Il mio. Ma quello della Mose? No, il DB ho messo, se voglio metto anche quattro casse, c'ho due DB, due alto, chi sono le Mose, chi sono le Mose, io sono blocca, vero? Ma le casse quali sono, quelle col piedistallo sono? Quelli con lo stativo, esatto. E quelli da che usano nei concerti? Beh, più che concerti, queste li usano per fare c'è sale, roba così, dai. I concerti sono una cosa ancora, insomma. Il sistema LR si usa nei concerti. O verticale, vabbè, dipende. Però si possono usare anche queste all'aperto, si possono usare. E maghizi, 400 watt, mi dà una fila, però. Io ti toccano bene. Sì, ma il cazzo in casa non vanno bene, quindi ho fatto cazzo in casa. A parte che non ascolti bene la musica quando è troppo alta. Se sei un appartamento di 70 metri quadri. Quelle che c'è tu, cazzo, vanno bene all'aperto, non in casa. Ma la sofferta, che già si sentono bene neanche in casa. Si sentono bene. Non so. Io dico, io la più inteso, c'è niente che fate dei ghiacci, che fate che usino gli atti dentro. Queste boom boom si andano, zoccani, sono buone, sono. Cioè, sono di qualità, sono. Non è modesta, capito? Non si intende gli atti, no? Guarda, io ho le GBL e sono 150 watt a via. A voi da 300 watt senti della musica, tanto piace, da cazzo devo fare. A parte che cazzo che non la puoi usare, a parte che non la uso neanche aumentare perché cazzo deve venire di sopra, attaccate la gamma. E quindi non lo sfrutti neanche, perché non lo sfrutti neanche. Perché se lo metto neanche la metà lo metto io il volume. Ma sono sempre casse da casa, usare nei locali c'è un'altra diversità ancora. Cioè, soccani, spingono, quelle lì. Che da casa si alzi, poi c'è un limite, basta, si troviene dopo un certo. Sì, vanno perché vanno. Ma dopo che arriva una certa cosa si limitano. Chi ci va, chi si andare. Lo so che vanno, lo so, ce l'avevo, allora, non ce l'avevo io, ce l'avevo un amico mio quando abitavo su, e ce l'aveva in casa, lo so, cazzo, lo so che andavano, e andavano sì. Ma tu dici, se no, io ci rubo un nobile. Abbascia di sensaturazione. No, l'ho abbassato, l'ho spento, l'ho messo in stand-by. Andava. Vai Luca. Ma vai, non rodona. Momenti sa chi sta. A me questa neri. Cappa. Ho ti posso giurare che vanno, anche quelle che sono più piccole da 300 watt, quelle spingono un bel, cioè sono due cose diverse, sono, non venuta di là. Ma giriamocela come vogliamo, ma sono due, una la berlina di casa e una sono casse per fare queste cose qua. Sono due cose diverse. Quanto le avete pagate quelle lì? Quelle costano un pacco di denaro, cane. E poi è costato, ho detto 50 euro l'una, costa. Quanto? 3,50 l'una. Sì, esagera, 3,50 o... Oh, a tu. Quando eravamo nove, sì. Adesso se le trovi, le trovi anche a 2,50, le trovi. Capo, quando erano nove, costavano così. Esagerato. Noi stiamo parlando di impianto che suona e di qualità. Stiamo parlando, non siamo un papi tecnici, ripeto. Ce ne sono tanti. Io ti faccio sentire il mio e mi dirai, cavolo, avevi ragione. Il problema è come compri un boss da casa, è la stessa cosa. Loro sì, il colore di costruirlo sì, però senti la qualità del suono, senti la perfezione, senti. Non intendi un barattolo cinese, cioè, senti la qualità, senti. La cosa è così, c'è poco da girarci intorno. Come io compro le mie che costano 300 e passa euro l'una, cioè, però senti la qualità, senti, del suono. O prendi le PPT, costano 500 euro l'una, costano. Però tu vai a sentire suonando e c'è la qualità, cioè. C'è la qualità, durano gli anni, i cose di prima fascia. Bisogna, sull'audio, io me ne intendo abbastanza bene. Vabbè, quello sì. Ma quelli della Bose già sono buoni, lo so, l'ho già provato quella cassa lì. Sono un bel suono, dai. Certo, ma certo che sì. È la qualità quella che conta. La qualità di un prodotto. Io questo della Bose, guarda, ce l'ho quasi più di 15 anni, quasi 20 anni ce l'ho, questo che ho comprato. E suona come il primo giorno che io l'ho comprato. I materiali sono di qualità, sono. Perché? Perché è roba buona, non è mondezza. Io ti faccio sentire queste DB tecnologiche, tecnologies, che sono, mi sembra che sia, adesso sono con Montarbo, sono. Se tu conosci la marca Montarbo, costano una follia, costano, però quando lo intendi su vendi, cambi idea, dici io voglio questa. È come se, come un impianto DMB, Audio Drake, quelli impianti da stadio e cose. Io per me il DMB è meglio del K2 che usa Vasco Rossi, per dire, perché noi ce l'abbiamo avuto il K2, bellissimo impianto, però c'ha i medioanti che non mi piacciono, capito? Preferisco più il DMB, 100.000 volte ha un suono fantastico, però cazzo, lo usano grandi cantanti, questo il K2 dell'acustica. Bello impianto, suona, però il DMB è qualcosa di diverso, è un impianto che viene fatto in Germania. Lo so, dai, un attimo che stanno suonando, a tu, fai girare. Grappa, Luca, ci sei? Tutti a mangiare, voi state giù la parte pronta.